l'assemblea degli azionisti che si fa ogni anno per l'approvazione del bilancio. Insomma, il bilancio è stato presentato, il bilancio 2010, quindi l'assemblea degli azionisti è chiamata a ratificarlo. Insomma. Ora, qui come dicevi, questo si inquadra, questa iniziativa di oggi si inquadra, diciamo, nell'insieme di quelle che sono i tentativi di informazione e contestazione della politica filonucleare che è stata varata dal governo e che fa capo particolarmente all'Enel, insomma, perché l'Enel, in virtù degli accordi con l'EDF francese, dovrebbe costruire 4 centrali nucleari del tipo EPR, cioè lo stesso tipo di brevetto progettazione francese, lo stesso tipo che è in costruzione, una in Finlandia e una in Francia, a Flamanville. Quindi questo è certamente l'aspetto principale, però direi non è secondario comunque contestare la politica dell'Enel nel suo complesso, perché direi che è deficitaria sotto molti punti di vista. Insomma, dire cos'è l'Enel oggi è veramente difficile, perché chi ha ancora in mente la vecchia società di Stato, il vecchio ente pubblico, eccetera eccetera, insomma, ha in mente un'idea completamente sbagliata. Insomma, l'Enel è una multinazionale a tutti gli effetti, che opera tantissimo all'estero, in particolare in Sud America e in Europa centrale fino alla Russia, con una serie di acquisizioni societarie che si sono avute nel tempo, negli anni scorsi, e che anche da un punto di vista, anzi direi soprattutto da un punto di vista finanziario, insomma, l'hanno esposta e la espongono tuttora a un forte indebitamento. L'Enel ha 45 miliardi di euro di debito, ce n'aveva fino all'anno scorso più di 50, è riuscita con questo l'esercizio 2010 a diminuire il debito, ma di poco, insomma, di 6 miliardi. Un debito di 45 miliardi è dovuto proprio alla politica di acquisizione. Insomma, l'Enel ha acquistato Endesa spagnola, che a sua volta aveva nel suo pacchetto parecchie centrali e società elettriche in Sud America, Argentina e Cile in particolare, che sicuramente sono state una dote e che oggi rappresentano, diciamo, dal punto di vista finanziario i maggiori introiti. Insomma, paradossalmente, se l'Enel riesce a dare degli utili di esercizio, lo deve principalmente a queste cose, anche se a queste attività, soprattutto in Sud America, anche se, come dicevo, gli sono costate carissime e oggi sta scontando, diciamo, questa situazione. Quindi c'è anche da focalizzare questa politica dell'Enel, che viceversa sfugge a qualsiasi attenzione, qualsiasi controllo. Insomma, non è più certamente un'impresa statale, anche se circa un 30% di azioni è ancora in mano al Ministero del Tesoro formalmente, però l'Enel è una società per azioni quotata in borsa ormai da più di 10 anni, da 13-14 anni, da notare che da quando è stata quotata in borsa l'azione valeva 8 euro, oggi ne vale 4, quindi c'è stato un dimezzamento, anche questo non è un buon risultato, e soprattutto, insomma, una serie, come dicevo, di investimenti che lasciano molto a desiderare, tanto per usare un eufemismo. Insomma, pensiamo a tutte le centrali nucleari che ha comprato, le ha comprate comprando Endesa, perché in Spagna ci sono centrali nucleari, non molte, sono 7-8, ma ci sono, e soprattutto ha comprato attraverso la Slovacchia Elettricitate, che è una società slovacca, ha comprato 4 centrali nucleari vecchie di modello sovietico, di cui 2 le sta con grossi sforzi finanziari riprogettando, risistemando, insomma, ne sta completando la costruzione secondo standard più moderni, che però insomma questo dura da parecchi anni e questi impianti ancora non vanno in servizio. Dopodiché ha investito in Russia, centrali a carbone, centrali a ciclo combinato, in Romania, eccetera, eccetera, in altri paesi del Centro America ha fatto altri tipi di investimenti, peraltro giunti alle cronache, perché investimenti di tipo idroelettrico vanno a danneggiare le popolazioni locali, e questo è appunto venuto di recente alla cronaca. Quindi insomma mi sembra un quadro decisamente negativo e fosco per certi versi, in cui questo ruolo della maggiore società elettrica italiana, ormai il mercato italiano, l'Enel ha un 40% del mercato italiano grosso modo, però è largamente poi condiviso il resto del mercato da Edison, da A2A, insomma ci sono altre società elettriche che generano energia elettrica e producono energia elettrica e anche insomma sono presenti nel ramo distribuzione, sia pure in forma minore, quindi una situazione tipica di libero mercato in cui questa società insieme alle altre poi fa sì che con le sue politiche e anche in virtù delle leggi di privatizzazione del 1999 l'Italia oggi ha, l'utente italiano ha le tariffe più alte d'Europa, insomma le tariffe elettriche più alte d'Europa, e da questa situazione non se ne esce, anzi all'epoca come tutti ricordano il decreto Bersani, che porta la firma di Bersani nel 99 per la privatizzazione del settore elettrico, prometteva grazie alla concorrenza tariffe più basse, è avvenuto esattamente il contrario, insomma. Diciamo siamo tornati a una situazione pre-1962 in cui c'è un monopolio privato, in cui poche società si spartiscono la gran parte del mercato elettrico e la determinazione delle tariffe insomma è fatta con metodi e calcoli che penalizzano decisamente insomma l'utenza. L'energia elettrica costa cara, è gravata di una serie di non solo di tasse ma insomma di tariffe anomale, insomma pagamento di oneri del vecchio nucleare ancora, insomma che è una componente della tariffa, stranded cost e altre voci strane che in bolletta comunque costituiscono un 14% del valore della bolletta, insomma. Ecco, quindi l'insieme di queste cose facendo perno sulla questione nucleare, perché è di estrema attualità, fanno sì insomma che oggi in concomitanza della riunione dell'assemblea degli azionisti si vada a far sentire una voce insomma per contestare questa società e questa politica energetica che si fa in Italia, insomma. Ecco, questo un po' è il quadro e le motivazioni della giornata di oggi, che poi alle 16:30 viceversa proseguirà in via della Mercedes 55. Ci sarà una presentazione di un libro che abbiamo scritto insieme io ed Angelo Baracca, che si chiama Scram, la fine del nucleare, che parla appunto di questa questione insomma in termini, cercando di dare spiegazioni e informazioni sulla tecnologia nucleare, sulle controindicazioni che questa scelta porta con sé. Questo è il quadro della giornata, diciamo, insomma, ecco. Giorgio, ti volevo fare una domanda, la faccio anche a me stesso e a chi ci sta ascoltando. Vogliamo un attimo ricordare quali erano le premesse e il significato del referendum dell'87 sui tre punti che di fatto hanno fermato, no? Il progetto nucleare, che all'epoca si chiamava PUN, no? Sì. Progetto unificato nucleare, e come questo diciamo non faccia scopo o faccia scopo a seconda dei punti di osservazione con il fatto che l'Enel attraverso magari il giochino che puoi anche un po' descrivere meglio, è possessore e anche gestore non solo di centrali nucleari all'estero. Cioè, come si concilia o come mal si concilia quell'esito referendario dell'87 che impediva all'Enel di avere anche rapporti internazionali, anche se nell'ambito della cosiddetta ricerca quant'altro, con il fatto che invece attraverso il processo di privatizzazione e delle scatole cinesi oggi è proprietaria di quello che tu dicevi, per esempio in Slovacchia. Ma insomma, bisogna sempre ricordare che non è che il referendum dell'87 fosse un referendum sì o no al nucleare, perché il referendum in Italia è comunque un referendum abrogativo, quindi non era una domanda alla popolazione, dice volete o non volete il nucleare. Le domande, i quesiti erano di abolizione di alcune passi di legge preesistenti che all'epoca esistevano, che messi insieme, combinati insieme, in forma politica significavano questo, ma in effetti in forma politica erano un no al nucleare, però questo se vogliamo essere insomma chiari, no, per dare un'informazione chiara, lì erano tre quesiti. Il primo quesito riguardava una norma del CIPE che consentiva al CIPE, questa norma, di decidere sulla localizzazione delle centrali nel caso in cui gli enti locali non decidessero entro tempi stabiliti. Un altro quesito chiedeva di abolire la norma che prevedeva un compenso ai comuni che ospitavano centrali nucleari. Il terzo quesito prevedeva l'abrogazione della norma che consentiva all'Enel di partecipare ad accordi internazionali per la costruzione e la gestione di centrali nucleari all'estero. Quindi l'insieme di questi tre quesiti poi determinò il blocco, insomma, anche perché la forte partecipazione al voto e l'80% dei voti era favorevole all'abolizione di queste cose, quindi dette un segno politico inequivocabile, insomma, no? Poi la classe politica si adattò evidentemente a questa situazione, tant'è che poi fu decisa la famosa moratoria. Ecco, questo è l'altro punto fondamentale. Abolendo quelle parti di leggi con quei quesiti, c'era questo impedimento di fatto per l'Enel di costruire e gestire impianti nucleari, compresa la situazione all'estero. Dopodiché il governo Goria dell'epoca, perché era il governo Goria, stabilì una moratoria di 5 anni nei programmi nucleari, che poi insomma si è prolungata nel tempo, perché nessuno evidentemente ha avuto il coraggio di rimettere in discussione quella situazione fino a pochi anni fa. Chernobyl, fra l'altro, no? Nell'86. Questa è la situazione, per cui tutti quei quesiti sono formalmente scaduti, no? Cioè intanto è scaduta la moratoria da molto tempo, ma quei quesiti sono anche venuti meno perché non esistono più, tra l'altro, quelle leggi, cioè l'abrogazione di quelle leggi, e non, soprattutto non esiste più un ente nazionale per l'energia elettrica, essendo trasformato in società per azioni, quindi insomma quelle leggi non sono per molti versi riconducibili alla nuova assetto societario dell'Enel, insomma. Quindi l'Enel ha ripreso a partecipare ad accordi internazionali con la Francia, per esempio il reattore di Flamanville che è in costruzione appunto nel nord della Francia, l'Enel partecipa per il 12,5%, così come ha potuto acquisire pacchetti societari dell'Endesa e della società slovacca che hanno anche centrali nucleari, insomma, quindi diciamo è superato dai fatti tutto questo, è inutile stare a cercare. Resta ovviamente che cosa? Resta il valore politico, no? Valore politico che poi vabbè qui dovremmo. No, la domanda mia era pertinente, tu l'hai spiegata nella tua risposta oggi, quindi insomma il cambiamento generale comporta pure che il governo Berlusconi gli è stato consentito, come vogliamo dire, di rivedere anche tutta questa storia, che però, ripeto, formalmente era decaduta, è inutile appigliarsi a ma avevamo vinto un referendum. No, io la domanda te l'ho fatta apposta e la tua risposta è esaustiva, con un intento per verificare anche attraverso quello che tu hai spiegato benissimo, e credo che sia capibilissimo anche da chi ci sta ascoltando via etere, è il fatto che uno degli effetti, tra virgolette, secondari, no? Come nei bombardamenti, no? Gli effetti di fuoco amico e cose del genere, o gli errori, della privatizzazione del settore dell'energia elettrica, quindi la trasformazione in SPA, lo spacchettamento, eccetera, ha consentito, fra le altre cose, anche questo svigolare rispetto all'aspetto del nucleare su base internazionale. Sì, certamente. Ecco. Quindi, oltre alla storia delle tariffe, è stato anche un processo europeo. Con questo non voglio dire che allora tutto questo giustifica, no, ma per inquadrare la situazione, insomma, qui c'è stata negli anni 90 la liberalizzazione del mercato elettrico europeo ha fatto sì che a qualcuno in Italia gli è apparso vero, insomma, erano anni che si sparava sull'ente nazionale per l'energia elettrica. Sparavamo anche noi sull'ente nazionale per l'energia elettrica, no? Lo contestavamo certamente da punti di vista diversi di quelli che poi hanno voluto a tutti i costi, diciamo, lo spezzettamento e la perdita del servizio pubblico. La differenza era questa, insomma, certo. Che non è da poco. La differenza non da poco, tanto che forze politiche e forze ambientaliste, ecologiste, trasformatesi in politica a seconda delle maree, insomma, no? Presenti, sì, certo, ma non presenti più in Parlamento. Dobbiamo ricordarlo, quelli delle energie alternative, insomma, per capirci, che ancora esistono, che quelli che hanno voluto la distruzione del pacchetto unico Enel statale. Sì, è figlio anche di un punto di vista, non solo, non per addebitare la responsabilità agli ambientalisti, però è anche figlio di un punto di vista ambientalista che voleva gli incentivi per energie cosiddette rinnovabili, e che però, insomma, poi come fu realizzato, alle energie rinnovabili ci furono assimilate, si parlò anche di fonti assimilate, per cui andavano a prendere incentivi cose che di rinnovabile non avevano assolutamente niente, insomma, ecco, questa in sintesi è un po' la cosa, ma questo fu il coronamento diciamo di un'azione di critica e di smantellamento del servizio pubblico che fu incessante in quegli anni, insomma, non che l'Enel non avesse fatto qualcosa per tirarsi dietro queste cose, insomma, gli scandali di Tangentopoli coinvolsero pienamente tutta la struttura dell'Enel, insomma, però ripeto, il provvedimento, il CIP 6, se vogliamo essere precisi, è del 1991, quindi anche prima del grande casino di Tangentopoli, insomma, no? Certo. Quindi era un tentativo realizzato malissimo di dare un diverso indirizzo alla politica energetica, che però, insomma, fu realizzato male e fece in qualche modo da parente, da tiro a quattro per chi viceversa voleva rimettere le mani sul settore elettrico, insomma, sui profitti che venivano dal settore elettrico. A proposito di mettere le mani sul settore elettrico, come dire, che è un discorso in divenire, in progress, no? Non è che è cominciato, si è stoppato, ma abbiamo assistito in questi anni, perlomeno dal decreto Bersani 98-99, che era il governo D'Alema, se non sbaglio, a successivi arrampicamenti, no? Attraverso acquisizioni di pezzi, e acquisizioni di azioni, di pacchetti azionari e quant'altro, e qui rimando a quello che hai detto una decina di minuti fa, quando facevi riferimento che oggi il Tesoro, quindi lo Stato in quanto tale, è possessore solo di circa il 30% delle azioni Enel, le altre sono disseminate in altre cose. Rispetto a questo fatto, cioè a come l'attacco attraverso il processo di privatizzazione e cosiddetta liberalizzazione del settore elettrico, e non solo, anche quello del gas, ma per rimanere nell'elettricità, che poi ci riporta alla questione nucleare oggi, al referendum odierni, è di due giorni fa, se non sbaglio, la notizia che, guarda caso, nell'ambito dei rapporti che ci sono stati nell'incontro fra Sarkozy e Berlusconi, oltre a trovare accordi sulla cessione di Parmalat all'Actalis, c'è stato il subentro di un nuovo amministratore delegato francese a una delle concorrenti di Enel qui in Italia, che è Edison. Può dire qualcosa su questo? Vabbè, qui insomma le cose sono molto intrecciate, ma è giusto nel libro che citavo prima, tra l'altro si spiegano anche questi aspetti, insomma si rifà una storia della energia elettrica in Italia, in particolare del nucleare italiano, un po' diversa dalle favolette che normalmente raccontano. Cioè la situazione, l'Edison è di fatto posseduta come società dalla EDF. L'EDF, se ti ricordi, nel fine anni 90, inizio 2000, costituì una società che si chiamava Italenergia, e Italenergia era a maggioranza azionaria della Electricité de France, con l'intento di comprare proprio gli asset che venivano venduti dallo smembramento dell'Enel. Esatto. E quindi comprare impianti di generazione. Così è stato. Si arrivò, se tu e gli ascoltatori, tu te lo ricordi senz'altro, ma tanto per rinfrescare la memoria agli ascoltatori, si arriverò con Prodi col governo Prodi a tentare di impedire la scalata di, esatto, di EDF al mercato elettrico italiano, facendo una sorta di decreto che impediva con partecipazioni di questo tipo, insomma, no? Che poi il decreto fu impugnato dalla Francia in sede di Comunità Europea, e la Comunità Europea dette ragione alla Francia, per cui questo, insomma, però questo braccio di ferro, che è notevolissimo e sempre sottaciuto, vedeva esattamente questo, cioè quelli che Enel e EDF, che erano stati nei tempi d'oro degli enti pubblici di Stato, sempre a braccetto per lo scambio di energia, e si facevano favori reciproci da questo punto di vista, con la liberalizzazione del mercato arrivarono ai ferri corti, perché la Francia se ne fregò completamente della direttiva europea che gli imponeva di privatizzare almeno il 30% delle sue proprietà, e quindi dei suoi impianti, della sua rete, eccetera, eccetera, giustificando questo fatto con la grande composizione dei suoi impianti dovuta al nucleare. Cioè dice: io ho gli impianti nucleari, per cui gli impianti nucleari non si possono vendere come gli altri, c'è un rischio, eccetera, eccetera, e qui la Francia fece come gli pare. Però nel fare come gli pare, altrettanto tentò di fare in Italia, insomma, appena, come si dice, piatto ricco amici ficco, appena fu deciso lo spezzettamento dell'Enel, EDF comprò impianti Enel, una delle famose new company, no? Quelle società che venivano create dove dentro ci si metteva un certo numero di impianti, fu comprata esattamente dalla Italenergia, cioè dall'Edison, per mano dell'Edison, ma che faceva capo a EDF. Il tentativo di bloccare da parte del governo Prodi dell'epoca fu maldestro, perché poi impugnato in sede europea. Si arrivò però successivamente a un accordo con i francesi in cui non si rompevano più le scatole a Italenergia, e in cambio però l'EDF consentiva degli investimenti a Enel in Francia, e quindi cominciarono queste compartecipazioni. Quindi siamo di fronte. Enel in Francia ha un certo numero di impianti termoelettrici, ne sta costruendo altri, e in più si stabilì la compartecipazione nella nuova centrale, appunto, di Flamanville, che è attualmente in costruzione. E quindi fu il primo reingresso dell'Enel nel campo nucleare, avvenne proprio attraverso EDF. Poi successivamente comprò la società slovacchia, questa società slovacchia che ha questi impianti ex sovietici, ex russi, insomma, diciamo così. Quindi, come spesso accade, anzi come quasi sempre accade, come sempre accade, le cose partono da lontano, no? Quindi non è che si può imputare solo ed esclusivamente all'attuale governo, no? Attraverso l'accordo con Sarkozy e Berlusconi, a progetti che fra stop and go partono da almeno una quindicina d'anni da questo punto di vista. Vabbè, se per questo possiamo sempre ricordare il Super Phoenix, se no che troppo spesso viene dimenticato. L'Enel partecipò alla costruzione del Super Phoenix per il 30%. Insieme a francesi e tedeschi. È stato un fallimento, è stato chiuso a metà anni 90 perché c'aveva un casino di problemi, è costato un sacco di soldi e si stanno ancora pagando i debiti verso i costi di quell'operazione. Ecco, insomma. A proposito, e in correlazione, ma collateralmente al progetto del fast breeder super veloce del Super Phoenix, come hai detto tu, poi è andato abortito dopo svariati anni, in cui anche lei ne ha partecipato per un terzo insieme ai tedeschi e ai francesi. Collateralmente a questo c'era il famoso progetto prova elementi di combustibile, il PEC del Brasimone sulla cordigliera, chiamiamola così, tosco-romagnola. Che fine ha fatto quella cosa lì? Ma quello era morto prima ancora di nascere, perché... No, mi riferisco ai manufatti, ai lavori, ai soldi spesi... Questo non lo so, i manufatti ci stanno ancora, insomma, evidentemente, però non so quale destinazione cercheranno di dargli da parte della nuova dirigenza dell'Enea, insomma. Ma forse, vista la forma, potrebbe essere messo come stemma e blasone... su come si chiama, diciamo che villa, quella da parlare troppo del passato, insomma, bisogna pure cercare di parlare del presente. I progetti del passato nucleari in campo nucleare italiano sono quasi tutti fallimentari, se non altro perché anche se all'inizio uno gli può concedere che come idee iniziali potevano avere uno scopo, i tempi di realizzazione sono stati talmente lunghi che poi questi progetti, quando sono divenuti realtà, erano largamente superati da altre tecnologie, da altre decisioni, da altre scelte, insomma, che venivano fatte. Insomma, senti, hai avuto modo di seguire... La storia del Cirene esemplare, insomma, che non si è neanche portata a termine, ma insomma... Per quel tanto che si è costruito era un reattore che non c'aveva niente a che vedere col progetto iniziale, era costato l'ira di Dio, era decisamente superato dalla tecnologia canadese, lo stesso dicasi per il PEC oppure l'investimento giù in Basilicata sull'ITRECH per il riprocessamento del combustibile al torio, che fu portato a termine quello stabilimento, quell'impianto, quando ormai il ciclo del torio era stato abbandonato da tutti, insomma, ce l'hanno ancora in piedi soltanto gli indiani, ma insomma con scarsi risultati finora. Quindi la storia del nucleare italiano è costellata di queste scelte. Tornando all'oggi, mi sembra che in qualche modo queste scelte si vanno riproponendo, magari non dal punto di vista della ricerca, perché queste cose di cui parlavamo adesso attenevano più al settore della ricerca nucleare, insomma, no? Quindi non a caso erano più che altro gestite dall'Enea o dal CISE in origine. Oggi lo si fa sul piano del nucleare industriale, cioè con i reattori di generazione avanzata, così come vengono detti, ma che sono altrettanto fallimentare, insomma, cioè l'EPR, questo francese reattore francese, è da 1600 megawatt, che è il più grosso mai concepito e costruito, è un bidone, insomma, è noto anche ai francesi che è un bidone, tant'è che l'EDF si vuole sganciare da questo progetto e sta criticando fortemente Areva, perché è un progetto che costa troppo, è ingestibile, è troppo grosso, c'ha un sacco di problemi, ce li ha avuti in sede di costruzione sia in Finlandia che in Francia, non si riesce a vendere perché non l'hanno voluto nel Golfo Persico, dove gli Emirati hanno comprato due reattori coreani, non l'hanno voluto in America perché i partner hanno abbandonato, la Constellation Energy ha abbandonato la joint venture con i francesi, non l'hanno voluto i canadesi, che l'offerta era troppo alta, hanno deciso proprio di non costruire più impianti nucleari per il momento i canadesi, quindi... Perché se lo dovrebbe via l'Italia, insomma? Perché se lo dovrebbe via l'Italia? Ma perché al solito, perché l'Italia si prende tutto, come si è presa in passato quei primi reattori che furono costruiti, che erano sostanzialmente dei prototipi. Latina, Garigliano e Trino erano sostanzialmente dei prototipi, così oggi si prende un prototipo che è l'EPR, perché ancora ce n'è nessuno funzionante. Solo che mentre i finlandesi ne hanno ordinato uno, perché è giusto, insomma, uno dei prototipi uno ne può comprare, noi ne compriamo quattro perché siamo evidentemente più furbi degli altri, compriamo quattro reattori prototipo, no? Tutti insieme. Senti, parlando un attimo adesso della famosa insicurezza intrinseca del... Parliamo di Fukushima allora. Certo, per arrivare a questo, non so se hai visto ieri sera la puntata di Anno Zero. Sì. In cui un esimio professore universitario di cognome Battaglia all'Università di Modena, come dire, ha ripetuto fra l'altro le dicerie e i gesti, no? Di Veronesi, anche lui è stato, non lo so, una cosa istintuale, ha ripreso il pollice e l'indice dalla mano destra, zero morti, Chernobyl non ha ammazzato nessuno. Anzi, ha detto Fukushima non ha mandato all'ospedale nessuno e nessuno è morto. In quanto ai morti di Chernobyl, 25 aprile 1986, si è limitato ai pori 29 disgraziati di vigili del fuoco che sono stati i primi a intervenire, altre due persone e successivamente altri 19, quindi la somma fa 50 praticamente, no? Non so se hai avuto modo di seguirla e ricollegandosi. Sì, l'ho seguita, ma io se devo dire l'impressione proprio personale è che questa persona è decisamente perlomeno sprovveduta, insomma, non sa quello che dice quando parla, perché poi anche lui ha citato lo Share, questa organizzazione, sì, dell'ONU che si è occupata dell'incidente di Chernobyl, non solo di quello, ma insomma sicuramente si è occupata. Gli è stato anche detto, insomma, il rapporto CEA, per quanto limitativo, per quanto diciamo finalizzato a minimizzare i fatti di Chernobyl, però metteva nel conto qualche migliaio di morti, adesso se erano 4.000 o 6.000 non ricordo, probabilmente sì, 6.000, insomma l'ordine di grandezza era questo. Queste erano i fino conti ad oggi di Lucia, quindi insomma decisamente fuori de capoccia quello che diceva quel tizio là, insomma Battaglia, quindi insomma non credo che abbia giovato alla causa dei filonucleari, insomma quello che ha detto ieri sera. Il problema però è che viceversa, di fronte a un atteggiamento aggressivo dell'altro filonucleare presente, che era l'onorevole Rupi, le risposte sono state piuttosto deboli, insomma non è possibile che uno si faccia sentir dire che si sta sistemando tutto, che la Sogin adesso sistemerà quello che succede e quello che c'è a Saluggia, a Trino, quindi insomma va tutto bene. No, non va bene per niente, perché al solito memoria corta anche degli altri nucleari, in questo caso dei parecchi ambientalisti, è che ci fu un'emergenza nucleare decretata da Berlusconi a partire dal 2002-2003, in cui furono a colpi di OPCM, ordinanza presidente del Consiglio dei Ministri, l'emergenza nucleare riguardò 5 regioni: il Piemonte, la Lombardia, il Lazio, la Campania, la Basilicata. E a botte di ordinanza appunto del presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, messe giù dal generale Jean, che era capo della Sogin, furono prese una serie di decisioni che culminarono, per chi se lo ricorda, nel decreto Scanzano del 2003, in cui si individuava lì il deposito nazionale geologico, che poi successe quello che successe, la popolazione si è rivoltata, gliel'ha fatto rimangiare quel decreto, e la successiva modifica, che non portava più il nome di Scanzano ma manteneva il progetto del deposito nazionale, diceva che questo sarebbe stato realizzato nel 2008. Allora, se uno non è in grado di dire queste cose all'onorevole Lupi, che sta in televisione, o chi per lui di volta in volta si presenta, Infatti sono quei frangenti masmediatici che ti viene proprio la voglia di tirare un bicchiere in piatta addosso al video. Ma sono cose recenti e governava lo stesso governo da adesso, non è che ce n'erano altri. E queste cose sono state tutte in fallimento. Cioè dal 2003 a oggi sono passati 8 anni, e qui la sistemazione dei rifiuti si sta adesso, come ha detto Lupi, si sta andando alla committenza, cioè ad assegnare i lavori. Nel frattempo però tutta quella roba che sta lì da 35 anni, come alla Trisaia, dentro un serbatoio, i rifiuti liquidi di terza categoria, cioè la massima attività possibile, più 64 elementi di combustibile di Elk River, uranio torio provenienti dagli Stati Uniti dentro la piscina dell'Ibex. E quelli sono, soprattutto alla luce di Fukushima, un pericolo reale. Io ho sollecitato e scritto, poi l'hanno presentata ma non la pubblicizzano, una interrogazione parlamentare che è stata presentata il 12 aprile scorso proprio su questo aspetto, alla luce di quanto è accaduto a Fukushima. Cioè a Fukushima c'è stato un incidente gravissimo alle piscine del combustibile irraggiato, cioè quelle piscine che servono a tenere il combustibile che ha lavorato nel reattore per un certo periodo di tempo, che è altamente radioattivo, e viene messo in queste piscine, in queste grandi vasche coperte d'acqua per diminuire la sua radioattività e poi un domani mandarlo al deposito o al riprocessamento. Lì si sono svuotate queste piscine, è mancata la refrigerazione a questo combustibile che si è surriscaldato, si è danneggiato, quindi ha emesso prodotti di fissione, probabilmente c'è stato anche uno scoppio data la produzione di idrogeno che l'ha coinvolto, quindi c'è stata una grossa contaminazione. Cioè questo è un incidente che non era stato mai previsto dalla normativa internazionale, l'incidente alle piscine del combustibile. Si è sempre pensato al reattore, al VS, a tutto quello che pare, lì si stava tutti tranquilli. Così non è. Allora, siccome noi abbiamo 3 siti in Italia dove c'è combustibile irraggiato in piscina, e sono piscine non adatte, non concepite per questo scopo, perché quella della Trisaia è una piscina di un impianto di ricerca e quindi non è concepita per mantenere elementi di combustibile a lungo termine, 35 anni, quindi è tutta da vedere e da rivedere. Quella dell'Avogadro non ne parliamo, l'Avogadro era un reattore a piscina di ricerca molto piccolo, insomma si facevano esperimenti, è stata adattata, è stata riempita di combustibile, era già adattamente radioattivo, anche quella non è adatta, sono soluzioni posticce. E quindi l'interrogazione chiedeva al governo e soprattutto all'autorità di sicurezza: che avete intenzione di fare? Pensate di fare un'ispezione, di verificare se lo stato di queste piscine, i sistemi di refrigerazione, i sistemi di emergenza, alla luce di quanto è successo a Fukushima, sono adatti o no, vista che è una situazione di questo tipo? Pensate che la Sogin debba fare una indagine suppletiva, i piani di emergenza sono aggiornati? Ecco, queste cosette qui che mi sembrano il minimo, proprio il minimo che un'autorità di sicurezza nucleare dovrebbe decidere alla luce di quello che succede nel mondo, alla luce di quello che è successo in Giappone, insomma, no? Cioè, certo. Appunto, ripeto, questa novità dell'incidente. È lì perché c'è la grande ipocrisia, la grande bugia che ci si nasconde dietro l'evento naturale, no? Del terremoto di un certo grado. Sì, ma lì non te puoi neanche nascondere dietro a questo, insomma, perché alla piscina del combustibile non c'è il discorso del terremoto, perché lì tutti ti diranno che non è successo niente. Allora, viceversa, intanto questo va verificato, ma trovandomi in questa situazione, quantomeno dovrei ordinare un'indagine suppletiva per vedere come stanno le cose in Italia, insomma, visto che questa è un'eredità concreta del vecchio nucleare, non stiamo a parlare dei nuovi impianti. Senti, per non parlare di un accordo, oggi c'è la manifestazione, lo ripetiamo, dalle 2 alle 6 del pomeriggio in Viale Regina Margherita, lungo tutto l'edificio che va dal 125 al 137, che è la sede principale della holding Enel, no? In occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dell'azionisti Enel, come abbiamo detto all'inizio. Quindi l'invito ai sinceri antinuclearisti, anticapitalisti, di essere presenti in quella sede. In quella sede abbiamo lavorato insieme, io e te e altri, compagni e non, per moltissimi anni, proprio nel settore nucleare. Due parole su quando ci volevano licenziare, quando avevamo fatto quella sorta di obiezione di coscienza di essere impiegati in altri settori, magari delle energie rinnovabili o similari. In Enel lo vuoi dare o no? Ma insomma, dallo due, no? Perché... Va bene, va bene. Ti sgravio da questo compito. La chiusura è proprio su questo. Ci hanno messo un po', come si dice, con la scrivania faccia al muro e con un lato monte, manco un lato telefono mare. E un blocchetto di carta, insomma, per parecchio tempo, mi sembra più o meno era questo, no, la cosa. Va bene, ti ringraziamo e ci vediamo oggi. D'accordo. Ciao Giorgio. Va bene, non è che ci voglio spendere più parole su questo Amarcord, però come dire, ci fa un certo senso, no? Anche tra virgolette un brivido, non so se di piacere, sicuramente non di paura, ma ritornare sul luogo del delitto, tra virgolette, di questo Viale Regina Margherita 137 o 125, perché nel frattempo lo spezzatino dell'Enel ha anche separato fisicamente e non sempre così vicini, contigui, come nel caso di Viale Regina Margherita a Roma. E niente. Va bene, io vi ringrazio anche perché, diciamo, con la vostra presenza il tasso tecnico della discussione si è notevolmente alzato. Ricordiamo appunto ancora una volta l'appuntamento per questo pomeriggio, poi più tardi, quindi intorno alle 17:30, ci diceva Giorgio, c'è la presentazione del libro di Giorgio e di un altro professore sul tema del nucleare in via della Mercede, libro di cui torneremo a parlare più diffusamente anche dalla radio, e poi insomma quando ripassi a Roma da queste vota parte, sì, chiaramente votare, noi non possiamo dire vota sì o vota no, invitiamo ad andare a votare, ecco, ci sembra già abbastanza.